Ad alta voce, Gabriele Vacis legge Le tigri di Mompracem, di Emilio Salgari. La pugna continuava sul ponte del vascello e le urla echeggiavano più forti che mai, mescolate a colpi di fucili e di pistole. Di tratto in tratto, fra tutto quel baccano, si udiva la voce tonante della tigre della Malesia che lanciava le sue bande all'assalto. Marianna era caduta in ginocchio e Yanez, smanioso di sapere come stavano le cose al di fuori, s'affaccendava a rimuovere le mobilie. D'improvviso si udirono alcune voci gridare: «Al fuoco! Si salvi chi può! Al fuoco!» Il portoghese impallidì. «Tuoni di Dio!» esclamò. Con uno sforzo disperato rovesciò la barricata, tagliò con un colpo di scimitarra i legami che stringevano il povero comandante, afferrò Marianna fra le braccia e uscì correndo. Dense nubi di fumo avevano già invaso la corsia e nel fondo si vedevano delle fiamme irrompere dai camerini degli ufficiali. Yanez salì in coperta con la scimitarra fra i denti. La battaglia stava per finire. La tigre della Malesia assaliva allora furiosamente il castello di prua sul quale si erano trincerati 30 o 40 inglesi. «Al fuoco!» gridò Yanez. A quel grido gli inglesi, che ormai si vedevano perduti, balzarono confusamente in mare. Sandokan si volse verso Yanez, rovesciando con impeto irresistibile gli uomini che lo circondavano. «Marianna!» esclamò, prendendo fra le braccia la giovinetta. «Mia! Mia, al fine!» «Sì, tua!» E questa volta, per sempre, nel medesimo istante, si udì un colpo di cannone rombare in alto mare. Sandokan emise un vero ruggito. «Il Lord! Tutti a bordo dei praos!» Sandokan, Marianne, Yanez e i pirati scampati alla pugna abbandonarono il vascello che ormai bruciava come un fastello di legna secca e si imbarcarono sui tre legni portando con loro i feriti. In un lampo le vele furono spiegate. I pirati diedero mano ai remi e i tre praos uscirono rapidamente dalla baia inoltrandosi verso l'alto mare. Sandokan trasse Marianna a prua e con la punta della scimitarra le mostrò un piccolo brigantino che navigava a una distanza di 700 passi dirigendosi verso la baia. A prua, appoggiato all'albero di Bombesso, si scorgeva un uomo. «Lo vedi, Marianna?» le chiese Sandokan. La giovinetta gettò un grido e si coperse il volto con le mani. «Mio zio!» balbettò. «Mancano soltanto poche righe alla fine, eh? Questo torna, è implacabile, non c'è verso. Guardalo per l'ultima volta!» le dice Sandokan. «Ah, Sandokan, tuoni di Dio! È lui!» esclamò Yanez. Strappò ad un malese la carabina e la puntò verso il Lord, ma Sandokan gli fece cadere l'arma. «Egli è per me sacro!» disse con aria tetra. Il brigantino si avanzava rapidamente cercando di tagliare la strada ai tre praos, ma era ormai troppo tardi, il vento spingeva i rapidi legni verso l'est. «Fuoco su quei miserabili!» si udì gridare il Lord. Un colpo di cannone partì e la palla abbatté la bandiera della pirateria che Yanez aveva allora fatta spiegare. Sandokan portò la destra al cuore e il suo viso divenne più tetro. «Addio pirateria! Addio tigre della Malesia!» mormorò dolorosamente. Abbandonò bruscamente Marianna e si abbassò sul cannone di poppa mirando a lungo. Il brigantino tuonava allora furiosamente lanciando sui tre legni palle e nembi di mitraglia. Sandokan non si muoveva, mirava sempre. D'improvviso s'alzò accostando la miccia. Il cannone si infiammò ruggendo e un istante dopo l'albero di trinchetto del brigantino, spaccato alla base, rovinava in mare schiantando le murate. «Guarda, guarda!» esclamò Sandokan. «Seguimi ora!» Il brigantino si era arrestato di colpo, virando di bordo, ma continuava a cannoneggiare. Sandokan prese Marianna, la trasse a poppa e, mostrandola al Lord, che urlava come un pazzo sulla prua del suo legno, «Guarda! Guarda mia moglie!» disse. Poi retrocesse a lenti passi con la fronte abbuiata, gli occhi torvi, le labbra strette, i pugni chiusi, mormorando: «Yanez, la prua agiava!» Girò due volte su se stesso, poi cadde tra le braccia della sua adorata Marianna, e quell'uomo, che non aveva mai pianto in vita sua, scoppiò in singhiozzi mormorando: «La tigre è morta! È morta per sempre».